Dialogo cinquantesimo. Un uomo si recò dall'apostolo di Allah e quando fu ammesso alla sua presenza disse: O apostolo di Allah, sono venuto a chiederti che cosa devo fare per avere nella vita terrena tutto quello che desidero e avere nella vita futura il paradiso. Disse il profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria: Domanda pure e ti risponderò. L'uomo chiese: Che devo fare per essere il più sapiente degli uomini? Rispose: Temi Allah. Chiese: Che devo fare per essere il più ricco degli uomini? Rispose: Accontentati. Chiese: Che devo fare per essere il migliore degli uomini? Rispose: Aiuta il prossimo. Chiese: Che devo fare per essere un prediletto di Allah? Rispose: Ricordati di lui soventemente. Chiese: Che devo fare per possedere una fede perfetta? Rispose: Perfeziona la tua condotta. Chiese: Che devo fare per entrare nel novero di coloro che fanno quel bene che avvicina ad Allah? Rispose: Adora Allah come se tu lo vedessi, poiché anche se tu non vedi lui, lui vede te. Chiese: Che devo fare per essere nel novero di quelli che obbediscono? Rispose: Adempi i tuoi doveri religiosi. Chiese: Che devo fare per comparire davanti ad Allah in stato di purezza e senza peccati? Rispose: Fai il bagno di purificazione. Chiese: Che devo fare per essere nella luce il giorno del giudizio? Rispose: Non essere ingiusto né con te stesso né con gli altri. Chiese: Che devo fare perché nel giorno del giudizio Allah sia misericordioso con me? Rispose: Sii misericordioso con te stesso e con gli altri. Chiese: Che devo fare perché i miei peccati diminuiscano? Rispose: Aumenta le tue preghiere per ottenere il perdono di Allah. Chiese: Che devo fare per essere il più generoso degli uomini? Rispose: Non lamentarti mai. Chiese: Che devo fare per essere il più forte degli uomini? Rispose: Mettiti nelle mani di Allah. Chiese: Che devo fare per avere il benessere? Rispose: Mantieniti in stato di purezza. Chiese: Che devo fare per essere amato da Allah e dal suo apostolo? Rispose: Ama ciò che Allah ama e ciò che ama il suo apostolo. Chiese: Che devo fare per essere preservato dall'ira di Allah nel giorno del giudizio? Rispose: Non adirarti con nessuna creatura. Chiese: Che devo fare perché le mie preghiere vengano esaudite? Rispose: Non cibarti di cose impure. Chiese: Che devo fare perché Allah non riveli i miei peccati nel giorno del giudizio? Rispose: Non fornicare. Chiese: Che devo fare perché Allah non riveli i miei difetti nel giorno del giudizio? Rispose: Tieni segreti i difetti dei tuoi fratelli. Chiese: Che devo fare per liberarmi dei miei peccati? Rispose: Le cose che liberano dei peccati sono tre: le lacrime, l'umiltà e le malattie. Chiese: Quali sono le cose che Allah apprezza maggiormente? Rispose: La buona condotta, l'umiltà e la sopportazione con pazienza delle sofferenze. Chiese: Cos'è che placa la collera di Allah? Rispose: L'elemosina fatta con discrezione e il mantenersi in buoni rapporti con la famiglia. Chiese: Che cos'è che spegne il fuoco dell'inferno nel giorno del giudizio? Rispose: La fortezza d'animo nelle avversità e nelle disgrazie della vita. Allahumma salli ala Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.